Capitolo 20. Abramo partì di là, andando verso la regione meridionale. Si stabilì fra Cades e Sur, poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara: «È mia sorella». E Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte in un sogno ad Abimelech e gli disse: «Ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa, perché è sposata». Ora Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: «Signore, faresti perire una nazione anche se giusta? Egli non mi ha forse detto è mia sorella? Anche lei ha detto egli è mio fratello. Io ho fatto questo nella integrità del mio cuore e con mani innocenti». Dio disse nel sogno: «Anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore. Ti ho quindi preservato dal peccare contro di me. Perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te, e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai, tu e tutti i tuoi». Abimelech si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose. E quegli uomini furono presi da grande spavento. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: «Che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso, che tu abbia tirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare». Di nuovo Abimelech disse ad Abramo: «A che miravi facendo questo?» Abramo rispose: «L'ho fatto perché dicevo tra me: certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Or quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. Dovunque giungeremo dirai di me è mio fratello». Abimelech prese delle pecore, dei buoi, dei servi e delle serve, e li diede ad Abramo e gli restituì Sara sua moglie. Abimelech disse: «Ecco, il mio paese ti sta davanti. Vai a stabilirti dove ti piacerà». E a Sara disse: «Ecco, io ho dato a tuo fratello 1000 pezzi d'argento. Questo sarà per te come un velo agli occhi davanti a tutti quelli che sono con te, e sarai riabilitata di fronte a tutti». Abramo pregò Dio, e Dio guarì Abimelech, la moglie e le serve di lui, ed esse poterono partorire. Infatti il Signore aveva reso sterile l'intera casa di Abimelech a causa di Sara, moglie di Abramo.